Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Proteste dentro e fuori dall'aula del Senato per il voto di fiducia sul DDL intercettazioni. Donne del pubblico impiego in pensione a 65 anni è arrivato il sì del governo. Balducci e la Cricca trovati conti milionari a San Marino. Il Sudafrica si prepara al grande esordio di domani, oggi secondo allenamento degli azzurri. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano il DDL intercettazioni con il voto di fiducia al Senato. Torniamo dunque a collegarci con Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Una seduta infuocata nell'aula di Palazzo Madama, quella in corso al Senato che deve approvare il disegno di legge sulle intercettazioni. È in corso l'intervento di Emma Bonino, tra poco l'inizio del voto a chiama nominale e poi dopo un'ora e mezza circa la fiducia. Ricordiamo che i senatori dell'Italia dei Valori sono stati espulsi dall'aula dopo l'occupazione notturna dei banchi del governo e sentiamo a questo proposito il presidente del Senato Renato Schifani. La Presidenza a questo punto è costretta ad espellere dall'Aula i senatori che indebitamente occupano i banchi del Governo, potranno rientrare per esprimere il loro voto di fiducia. La reazione dell'Italia dei Valori non si è fatta attendere. Antonio Di Pietro. Ancora una volta, invece di affrontare il problema, questa maggioranza parlamentare e il Presidente del Consiglio utilizzano un atto di forza per rimuovere il problema. L'Italia Valori ha occupato l'Aula del Senato per far sapere che questa legge criminale che impedisce alla magistratura di combattere la criminalità e all'informazione di far sapere all'opinione pubblica come stanno in realtà le cose è una legge che deve essere cancellata dall'ordinamento italiano. Il Partito Democratico non condivide la protesta dell'Italia dei Valori, ma la capogruppo Anna Finocchiaro annuncia che il Partito Democratico non parteciperà al voto di fiducia, abbandona l'Aula e chiederà la convocazione della Giunta del Regolamento, perché la fiducia posta dal Governo non è legittima, è stata messa sul testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 maggio, che è diverso da quello portato in Aula. Per la maggioranza invece la fiducia era inevitabile, perché il provvedimento è in discussione in Parlamento da 2 anni e l'abbandono dell'Aula viene contestato aspramente dalla capogruppo PDL Maurizio Gasparri. Il provvedimento, lo ricordiamo, deve ritornare alla Camera per il sì definitivo e per il momento da Palazzo Madama è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E governo battuto alla Camera per 2 volte di seguito questa mattina su altrettanti emendamenti del PD alla riforma della governance sulla sanità. L'Assemblea di Montecitorio ha approvato 2 emendamenti di cui è prima firmataria Livia Turco e dai banchi dell'opposizione si sono levati forti applausi. Ed ora è il Consiglio dei Ministri, molti temi oggi sul tappeto, fra cui quello dell'innalzamento dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego. È arrivata infatti la decisione del governo, come immagino ci confermi in diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, è così, dal 2012 le lavoratrici statali dovranno aspettare i 65 anni per accedere alla pensione di vecchiaia. Il Consiglio dei Ministri ha detto dunque sì all'equiparazione dell'età pensionabile per uomini e donne nel pubblico impiego senza fasi intermedie e cioè senza gradualità. E dunque fino al 31 dicembre 2011 si andrà a 61 anni, dal 1 gennaio 2012 a 65. Il punto era adeguare l'Italia alla richiesta di Bruxelles che aveva lanciato un ultimatum per il rispetto della sentenza della Corte di Giustizia europea. L'impatto è molto modesto, si parla di una platea di circa 25.000 donne da qui al 2019, ha detto il ministro del lavoro Sacconi, mentre il ministro per la funzione pubblica Brunetta ha illustrato la destinazione dei risparmi che ne deriveranno. Sentiamolo. Questo innalzamento non serve a fare cassa perché per il 2010 comporterà un risparmio zero, per il 2011 un risparmio zero, per il 2012 un risparmio di 50 milioni, per il 2013 un risparmio di 150 milioni di euro. Questo è, come dire, l'orizzonte temporale della manovra dentro cui è inserita, quindi non ha praticamente alcun effetto, anche perché questi risparmi andranno collocati in quelle funzioni sociale con sociale, come è stato detto. Nel medio e lungo periodo poi ci saranno ulteriori risparmi che andranno a finanziare il fondo per asili nido, conciliazione e non autosufficienza. La misura verrà presentata in Parlamento manovra. Palazzo Chigi ha poi approvato il regolamento che fissa 311.000 euro il tetto alla retribuzione dei manager pubblici, limite oltre il quale non sarà possibile percepire compensi per gli extra, cioè per incarichi ulteriori. Via libera sotto forma di emendamento alla manovra anche alla proposta di Calderoli sul taglio agli stipendi RAI, prevista una riduzione del 5% tra i 90 e 150.000 euro e del 10 sopra i 150.000. Palazzo Chigi ha poi affidato alla Consob la vigilanza sulle agenzie di rating e via libera definitivo infine all'accordo di integrazione degli immigrati, più noto come permesso di soggiorno a punti, un piano che prevede per esempio la frequenza di corsi di italiano e di educazione civica, la conoscenza della Costituzione, una sorta di patto tra lo Stato e l'immigrato che scatterà dal 2011. Da Palazzo Chigi è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Queste dunque le decisioni del Consiglio dei Ministri, mentre anche le donne del pubblico impiego si dividono su questo tema. Abbiamo raccolto l'opinione di un preside donna, è alla guida dell'Istituto Economico Vittorio Emanuele II di Napoli, si chiama Matilde Polito, ha 67 anni, avete sentito bene, e lavora ancora perché il limite dei 65 senza differenze di sesso per i dirigenti scolastici esiste già e il termine può essere prorogato di altri 2 anni. Sentiamola al microfono di Simone Spezia. Mi sento bene in salute. Mi piace il lavoro che faccio, mi sento utile socialmente, diciamo. Ho fatto io stessa questa scelta. Potevo rimanere docente e andare in pensione anche molto presto, diciamo a 57 anni potevo andare in pensione. Però insomma, mi sembrava un peccato non sfruttare le mie possibilità sia fisiche che psichiche, fare la signora che sta a casa e pensa alla canassa. Io sono favorevole perché naturalmente ho fatto io stessa questa scelta, però devo dire che lo Stato deve dare una contropartita, l'assistenza sociale che deve essere diversa. Io ho insegnanti giovani che sono gravate da tutte le incombenze dell'educazione dei propri figli, che non hanno molto spesso nulla nel territorio che permetta loro di essere sgravati. E poi c'ho le insegnanti più anziane che invece hanno la problematica dei genitori, che ormai sono anziani, che hanno bisogno di sostegno, e questo sostegno grava sulle donne, ed è questo che poi deve essere presentata la questione, deve essere presentata in questi termini. Intanto proseguono le audizioni sulla manovra, ce ne riferisce Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Ieri sera i sindacati, le cooperative, il mondo dell'edilizia, questa mattina la Confindustria, quindi nel pomeriggio sarà la volta di ABI e Banca d'Italia ed ancora Corte dei Conti ed enti locali. È il momento dunque delle audizioni sul decreto correttivo varato dal governo, fase questa che precede la presentazione degli emendamenti alla manovra. Divise ieri sera CGIL e CISL e UIL, Epifani ha ribadito le critiche al provvedimento ed ha parlato di testo iniquo e senza misure per lo sviluppo, da qui la decisione dello sciopero generale per il 25 giugno. Bene il rigore sulla spesa improduttiva, hanno commentato invece Bonanni ed Angeletti, linea del rigore appoggiata stamane anche da Confindustria, sì ai tagli, ha detto Emma Marcegaglia, ma attenzione ai fondi per le imprese, sentiamo allora la sua voce. Noi abbiamo ribadito un giudizio positivo perché serve una manovra che taglia e che mette in ordine i conti pubblici, abbiamo però rilevato alcune criticità, in particolare appunto il fatto che soprattutto nei tagli alle regioni questi tagli poi non finiscano per essere tagli ai supporti per le imprese sull'internazionalizzazione e sulla ricerca, che sono i temi per noi molto importanti. Serve più coraggio sulla crescita, ha detto ancora la presidente di Confindustria. Sul fronte degli emendamenti, infine, si sta lavorando su cedolare secca sugli affitti, sanatoria sugli immobili, esenzione della scuola dal blocco degli stipendi. Entrerà in manovra il taglio ai compensi RAI. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Ora le ultime sull'inchiesta Perugina sulla cricca. Nuove rogatorie all'estero per scovare i conti della cricca dei grandi appalti è quanto chiede la procura di Perugia, che avrebbe già i primi riscontri sui tesoretti accumulati nelle banche di San Marino e del Lussemburgo, direttamente intestati a funzionari pubblici coinvolti nell'inchiesta o a persone a loro riconducibili. Una parte, circa 10 milioni di euro, sarebbe stata individuata. Le verifiche riguarderebbero anemoni, balducci, rinaldi e altri componenti della cricca, ma non vi è ufficialità. Intanto nei prossimi giorni si saprà se verranno commissariate le aziende del costruttore Diego Anemone, tra cui il Salaria Sport Village. Secondo i PM Perugini, titolari dell'inchiesta, Sottanieta Vernesi, non è stato fatto nulla per evitare la reiterazione del reato. Riscontri si cercano anche sulle parole di Antonio Di Pietro, sentito un paio di giorni fa a Roma, e non è escluso che potrebbe essere ascoltato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Beatrice Vergari, GR24, Il Sole 24 Ore, Perugia. Dopo alcuni anni positivi, l'ultima stagione calcistica ha fatto segnare un aumento degli episodi di violenza. Ci saranno dunque correttivi alla strategia messa in campo? Sono aumentate del 20% rispetto all'anno scorso le partite con incidenti tra tifosi in Serie A e in Serie B. Si è impennata la cifra degli incontri a porte chiuse e il pubblico è aumentato di appena il 2%. Sono questi i dati preoccupanti del rapporto sulla sicurezza negli stadi di quest'ultima stagione. Secondo il ministro dell'Interno Roberto Maroni, l'anello debole del sistema sono gli steward addetti alla sicurezza. I tifosi violenti cominciano a prendere di mira gli steward perché sanno che se la prendono con un poliziotto, con un carabiniere, non hanno grandi possibilità di prevalere. Se la prendono con gli steward così come sono oggi, hanno qualche possibilità in più. E l'aumento del numero dei feriti tra gli steward ci dice che lì dobbiamo intervenire, aumentandone il numero, ma aumentandone anche la capacità di gestire una situazione difficile di ordine pubblico. L'aumento delle violenze è limitato solo ad alcune tifoserie. Secondo i vertici del Ministero e della Polizia, la tessera del tifoso non sarà l'ultima delle misure correttive. Nicola Cardo, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato del DDL intercettazioni, è infatti il giorno del voto di fiducia al Senato e ci sono proteste dentro e fuori dall'aula. Il PD non vota, libertà massacrata, dice. Donne in pensione più tardi, è arrivato il sì del governo in Consiglio dei Ministri questa mattina, le statali dunque andranno in pensione a 65 anni a partire dal 2012. E riprendiamo invece parlando dei mondiali di Sudafrica 2010, ormai siamo a meno uno, stamattina invece secondo allenamento degli azzurri. Dario Ricci, com'è andata? Sì, buongiorno da Casa Azzurri, qui a Centurion, è stato un allenamento defaticante anche in questo caso, meglio, si è lavorato soprattutto sull'aspetto fisico l'Ippi con i suoi uomini, perché poi nel pomeriggio invece allenamento tattico a porte chiuse proprio in vista della sfida col Paraguay, che sarà il nostro esordio lunedì a Cape Town. Saranno tutti disponibili anche a conferma della notizia, le dichiarazioni del medico azzurro Castellacci, tutti eccetto Pirlo, chiaramente infortunato, e speriamo di recuperarlo per la terza partita. In conferenza stampa, in una giornata abbastanza fredda, come sentite anche dal vento che probabilmente sta caratterizzando questo collegamento, esattamente, Montolivo. Montolivo il più probabile dei sostituti di Pirlo, ha detto lo scetticismo che ci circonda è una marcia in più per noi, e poi Zambrotta, uno dei senatori, ha detto siamo pronti per questo grande esito mondiale. Ecco Dario, domani quindi comincia il grande spettacolo, che atmosfera c'è adesso, che atmosfera c'è oggi in Sudafrica? Beh, atmosfera straordinaria qui a Johannesburg, ti dico solo un paio di cose, Piera, per farti capire a che livello stiamo. Capitolo Vuvuzela, che è uno dei temi del giorno, oggi la televisione ha diffuso l'invito pubblico a tutti gli spettatori che saranno presenti al Soccer City Stadium di non suonare le Vuvuzela durante gli inni nazionali, in forma di rispetto chiaramente per gli stessi, proprio perché insomma, servono delle indicazioni precise, perché altrimenti il suono è continuo e in ogni punto del paese. E poi domani, fischio d'inizio alle 16, cerimonia d'apertura alle 14, beh, l'invito sempre diffuso dalla TV nazionale è quello di recarsi allo stadio, di partire verso lo stadio, pensate, alle 9 del mattino. Accidenti. Per l'ondata umana che è prevista, che è prevista. Per Soccer City Stadium. E che tu ci racconterai, Dario, anche domani? Grazie. Con tanto di vuvuzela in mano. Grazie, ti lasciamo al vento allora. Grazie mille a Dario Ricci e torniamo invece in Italia con la pagina di cronaca. A Palermo, una vasta operazione antimafia. Ci sono i grandi esponenti della mafia palermitana come Francesco Bonura e Francesco Paolo Sveglia o Nino Rotolo, e c'è la crema dell'imprenditoria siciliana e palermitana in particolare come Francesco Lena, il proprietario dell'azienda vitivinicola Abbazia Sant'Anastasia di Castelbuono, o Vincenzo Rizzacasa, titolare dell'edilia Venusta, impresa espulsa l'anno scorso da Confindustria Palermo proprio per contiguità con la mafia e presente in numerosi grandi lavori della città, pubblici e privati, a volte in associazione con nomi noti e importanti dell'imprenditoria locale. Mafiosi e imprenditori alleati per continuare a fare affari e riciclare il denaro mafioso, quello dei Corleonesi prima e di Salvatore Lo Piccolo e altri capi mafia dopo. E questo è il quadro che emerge dall'operazione su mafia appalti condotta dagli uomini del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Palermo, coordinati dal procuratore Roberto Scarpinato, da domani procuratore generale a Caltanissetta. Dalle indagini, condotte con l'ausilio di intercettazioni, di verifiche tradizionali di lettura certosina dei pizzini sequestrati ai boss catturati come Lo Piccolo, è emerso un quadro di sostanziale controllo da parte delle famiglie mafiose della filiera del cemento grazie all'imposizione di imprese amiche. È emerso anche l'interesse per la costruzione, poi non andata in porto, del termovalorizzatore di Bellolampo. 19 le ordinanze di custodia cautelare, 18 sono state eseguite, un soggetto è ancora latitante. Nino Amadore, GR24, Il Sole 24 ore, Palermo. Grande attesa per i discorsi del Papa oggi e domani, a conclusione dell'anno sacerdotale, alla luce dello scandalo pedofilia. Era nato come occasione per riflettere sulla figura del prete nella società secolarizzata di oggi, l'anno sacerdotale che si chiude in Vaticano. Ma il Papa accoglie i sacerdoti giunti a Roma da oltre 90 paesi con l'attenzione soprattutto rivolta allo scandalo della pedofilia che sta scuotendo da mesi la Chiesa. Oggi la veglia di preghiera, domani la messa conclusiva in San Pietro e c'è attesa perché Benedetto XVI potrebbe pronunciare un invito collettivo al pentimento, alla purificazione e alla conversione. Non un mea culpa vero e proprio, lontano dal suo stile, ma l'ultimo atto imponente di una serie di interventi e gesti che hanno dato forma alla linea della tolleranza zero. Già nella veglia notturna, il Papa, rispondendo alle domande di alcuni sacerdoti, potrebbe toccare alcune tematiche commesse al tema degli abusi sessuali. In mattinata si è pronunciato il segretario di Stato. Il peccato, ha detto il cardinale Tarcisio Bertone, durante la celebrazione in San Paolo fuori le mura, genera una estraneità tanto più dolorosa ed irragionevole quando a commetterlo è un ministro della Chiesa. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 ore. Guerra ai Vucumpra, multe a chi compra merce in spiaggia. Siete d'accordo? E quanto vi abbiamo chiesto nel sondaggio di oggi? 52% di voi ha risposto di sì, il 48% ha risposto di no. Sentiamo Francesco Calzavara, sindaco di Jesolo, in provincia di Venezia. Qui infatti la polizia municipale ha dato 1000 euro di multa a una turista svizzera che ha acquistato un portafoglio Vuitton, naturalmente contraffatto, a 7 euro. È una legge che applichiamo già da 3 anni a Jesolo, questa della lotta alla vendita di merce contraffatta, oltre naturalmente a tutte le iniziative che mettiamo in campo per cercare di arginare un fenomeno del commercio ambulante sulla spiaggia che ha ormai livelli insostenibili. Noi applichiamo il doppio del minimo che è veramente quello che la legge prevede, e sono 500 euro, quindi il doppio, sono 1000. Credo che sia una forma di deterrenza che spero indurrà più di qualcuno a non affrontare acquisti incauti come ha fatto questa signora. I turisti e i commercianti di Jesolo chiedono al sindaco di intervenire per quello che è di sua competenza. La sua competenza naturalmente si ferma alla spiaggia. E restiamo in tema di spiagge e mare. Dimentichiamoci delle bandiere blu che non sono attendibili. Così il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo dice che si tratta di un sistema poco trasparente perché oltre alla qualità delle acque prendono in considerazione, dice la Prestigiacomo, la presenza delle strutture, ed è per questo che l'Emilia Romagna si trova in testa alla classifica, pur essendoci un mare migliore per esempio in Sardegna. La replica di Carlo Mazza, presidente della Federazione per l'Educazione Ambientale, cioè l'associazione che ogni anno stila la classifica appunto delle bandiere blu, l'ha intervistato Cristina Carpinelli. Prendiamo atto dell'opinione del ministro, però probabilmente è poco informato, anche perché noi ci basiamo su dati ufficiali che sono quelli sulla qualità delle acque delle ARPA e i dati del Ministero della Salute. Quindi, però diciamo che tra le varie valutazioni che sono state fatte c'era anche il fatto che in alcuni casi sono state date più bandiere blu alle spiagge dell'Emilia Romagna rispetto a quelle sarde. Sicuramente l'Emilia Romagna sulla sostenibilità, al di là del discorso della qualità dell'acqua, lavorano molto bene sui temi della sostenibilità. Per quanto riguarda la Sardegna e il suo splendido mare, c'è un problema di numero di prelievi. Lo standard internazionale di bandiera blu prevede 2 prelievi al mese, mentre in Sardegna, proprio perché la qualità dell'acqua è eccellente, ne possono in deroga fare anche uno solo. Questo problema non si porrà più per il prossimo anno, quindi col prossimo anno si potrà tranquillamente vedere più bandiere blu in Sardegna o meno, a secondo come lavorano. E in chiusura voliamo in Finlandia per il Nobel della tecnologia. The receiver of the Millennium Technology Grand Prize is Professor Mikael Pretzel. L'annuncio è arrivato dal palco dell'Opera House di Helsinki, in Finlandia. Michael Gratzel è il vincitore del Millennium Technology Prize 2010, ovvero lo scienziato che con la sua innovazione, più di ogni altro, ha migliorato la vita dell'umanità. Il direttore del laboratorio di fotonica del Politecnico di Losanna ha vinto questo Nobel biennale della tecnologia con le sue celle solari di terza generazione. Pensiamo ad esempio che è grazie a lui se possiamo ricaricare i cellulari con la luce del sole. Africa ed India hanno così fonti energetiche a costo molto basso e presto nelle nostre case potremo generare elettricità dalle finestre. Ora Gratzel, con gli 800.000 euro del premio, amplierà il progetto a cui sta lavorando dal 1970. Gli altri due nominati erano Sir Richard Friend, che ha inventato i transistor da stampare su fogli di plastica, e Stephen Ferber, padre dei microprocessori, che sono dentro il 98% dei nostri cellulari. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Elsie. Ed è tutto per oggi. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci. Il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.